problema col Colle, ma insomma il Colle ha una responsabilità abbastanza netta. Però a parte questo, chi è che rideva, scusa? Ormai non ho capito, chi è che ride? Perché ridi? Non ho capito. No, chiedo scusa, perché adesso sembra che la guerra in Libia l'abbia voluta il Presidente della Repubblica. Beh, certo, ci ha messo del suo. Ci ha messo del suo. Ma l'avete votata voi col pulsantino? Scusi, Parenzo, noi abbiamo votato, però io le voglio veramente bene, la adoro. Se lei fosse una persona informata, allora sarebbe dedotto del fatto che il primo in assoluto a spingere per il nostro intervento in guerra è stato il Presidente Giorgio. Ma no, che dite? Giorgio? Punto. Poi dopo lei può avere qualsiasi idea, però è inutile che lei ride. Ma io rido, ma rido da pazzi? Oggettivo, il Presidente Napolitano ci ha portato in guerra. È stato interventista, punto. Ma poi insomma... Ma l'ha votata, ma scusi... Ha sbagliato a essere interventista, secondo lei? Immagino. Ma certamente che ha sbagliato. Ecco, noi non dovevamo intervenire in Libia. Parenzo, visto che lei insiste, vedrai. Allora posso dirle, anche questo è un fatto storico, che il suo tanto amato Colle, sì, a suo tempo fu fautore anche dell'intervento sovietico a Budapest. Ecco. Che vuole? È una tradizione sua, evidentemente. Ecco. Ah, e siccome Giorgio Napolitano nel 56, sì, bene, beccando un grande Giolitti, sì, il quale disse: io sono comunista, ma non posso stare accanto a coloro che sparano sugli operai e sugli studenti. Bene. Il presidente del signor Parenzo disse che dobbiamo ringraziare l'Unione Sovietica perché intervenendo in Ungheria e facendo i 100.000 morti che poi fece, salvò. Queste sono sue parole, ha salvato la pace nel mondo. Ma lei, per esempio, tra Gheddafi e Napolitano, chi preferisce? È chiaro che ne so. Io scelgo Giorgio. Tutto insomma, è possibile qua. Io scelgo Giorgio, no? Che ne so, magari. Tra i due mali, uno sceglie il male peggiore. Ah, no? Tra i due mali, tra i due mali scelgo il meno. Come lotta come un leone, Lener. Cioè, tra i due mali scelgo quello meno pericoloso, lei dice. Beh, no? Quello minore. Cioè, tra i due mali, tra Gheddafi e Napolitano, scelgo il meno dei mali. Vabbè, ma comunque, insomma, sono opinioni.